cartellone di Elisabetta Fiorito. Se un figlio ha il diritto morale di lavorare allo sfruttamento pratico dell'energia atomica, non ricordo, stavi lì a guardarmi inorridito perché d'un tratto mi parve evidente che tu ci stavi lavorando e arrivaste alla precipitosa conclusione che io stavo cercando di fornire ad Hitler armi nucleari. Ed è questo quello che facevi? Ma no! Buongiorno, buongiorno! Per questa nuova puntata di Cartellone noi andiamo al Teatro Eliseo di Roma, dove è in scena Copenaghen, una pièce di Michael Frayn, con la regia di Mauro Avogadro e con tre grandissimi attori, Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lo Iodice. Noi siamo andati dietro le quinte del Teatro Eliseo di Roma per vedere cosa succede e poi abbiamo anche visto lo spettacolo. Indubbiamente si parla della bomba atomica. Un reattore. Questo che stavamo cercando di costruire, una macchina per produrre energia, per generare elettricità, per far andare le navi. Non parlasti affatto di reattore. Non potevo, non avevo idea di quanto potessi essere spiato. Ma poi ti chiesi se davvero pensavi che la fissione dell'uranio avrebbe potuto produrre armi nucleari. Ti sta tornando in mente. E ricordo chiaramente la tua risposta. Io ti dissi che in quel momento sapevo che ciò era possibile. Ed è questo che provocò il mio errore. Questo spettacolo, che si chiama Copenaghen, parla proprio del 1941, quando Niels Bohr e Werner Heisenberg, due fisici atomici importantissimi, uno danese e l'altro tedesco, ma non nazista, si incontrano con molte difficoltà perché sono sorvegliati dai servizi segreti. E questo incontro rinsalda un'amicizia che era nata 20 anni prima, perché Bohr era il maestro di Heisenberg, è un incontro molto controverso, storicamente molto controverso, perché i due litigarono, o perlomeno decisero di non continuare a parlare. Perché non hanno continuato a parlare è il tema della pièce, che è una specie di thriller in qualche modo, un insieme di punti di vista. Se i due avessero parlato, probabilmente la bomba atomica l'avrebbero avuta i tedeschi. E tanto Heisenberg, che era tedesco ma non nazista, e Bohr, che era danese ma era ebreo, non hanno probabilmente voluto continuare quel discorso che avrebbe dato probabilmente la bomba atomica ai nazisti. Che ruolo fa Umberto Orsini in questa pièce? Tre personaggi, Lo Iodice, Orsini e Popolizio. Il mio è quello di Bohr, che era un grande maestro, e che era una specie di Socrate in quell'Europa di quegli anni tra il 20 e il 32, e che tutti venivano, Einstein, Fermi, Schrödinger, tutti i grandi, a parlare con lui. Era una specie, lo chiamavano il Papa. Non è una commedia borghese normale, non c'è un tinello, non c'è un amore, non c'è un abbandono, non c'è una rincorsa al successo, non so, tutti gli elementi che sono nel teatro contemporaneo del Novecento. È una commedia fuori dagli schemi, ed è proprio per questo che è una commedia che da 10 anni noi, quando siamo liberi tutti e tre, riproponiamo sempre con grande successo, come sta avvenendo all'Eliseo in questo momento. Massimo Popolizio, Copenaghen, 1941, in scena al Teatro Eliseo, si parla di bomba atomica a due passi da via Panisperna. Che personaggio interpreta? Io faccio Werner Heisenberg, che è un personaggio quindi realmente esistito, un fisico teorico, un premio Nobel a 23 anni, quindi una mente pazzesca, che incontra Niels Bohr nel 1941 a Copenaghen, proprio questo è il titolo della pièce, per un incontro famoso e rimasto nella storia. È un personaggio pieno di contraddizioni, perché da una parte si pensava fosse un collaborazionista, cioè si pensava lavorasse proprio per i nazisti, si pensava appunto che lavorasse per far avere la bomba atomica ai tedeschi. Dall'altra parte si scopre invece, così come scrive Michael Frayn, cioè l'autore della commedia, che in realtà lui ha omesso volontariamente di fare un certo tipo di calcolo, che è il calcolo della diffusione, perché all'ultimo momento si è tirato indietro su un calcolo poi in realtà molto facile da fare. Quindi diciamo la teoria di Freyan dell'autore assolve i tedeschi, assolve la scienza tedesca, la scienza teorica tedesca, che è molto diversa dalla scienza nazista tedesca. E in questo, in questa commedia si dibattono appunto, dal punto di vista, è molto forte il dibattito fra etica, scienza e furore scientifico. Ci si chiede poi alla fine, questo furore scientifico giustificato appunto dalla voglia di sapere, in questo caso nella nostra pièce, cioè, la scienza è trattata in modo molto umano, quindi sono i rapporti umani ad avere la prevalenza. E, secondo una tesi molto vera, cioè che il calcolo e quindi la matematica è una questione umana. Anche se il tuo istituto dipende dal governo centrale, taluni particolari cittadini potranno continuare a lavorare indisturbati. Ah, mi stai dicendo che io sono protetto dai tuoi amici all'ambasciata? Sarebbero onorati se tu accettassi qualche occasionale invito. Hai ricevimenti all'ambasciata tedesca. Hai te con il plenipotenziario nazista. A qualche lezione. Gruppo di lavoro. Contatti sociali di qualsiasi genere sarebbero ben visti. Non ho dubito. E in certe circostanze anche utili. Quali circostanze? Credo che lo sappiamo entrambi. Giuliana Lo Iodice, che ruolo interpreta in questa pièce? Interpreta il ruolo di Margaret, che è la moglie di Bohr, in arte Umberto Orsini, che è un grande fisico nucleare, ed è la donna che in scena è praticamente lo svincolo continuo della commedia, cioè è l'input continuo che lei offre ai due protagonisti in modo da estrapolare alla fine da Heisenberg, interpretato da Massimo Popolizio, una specie di verità, perché poi la verità su questa tragedia non è mai stata detta e comunicata. Ha la forza, come tutte le donne, di arrivare al sodo, di arrivare in modo pratico e anche determinante alla verità delle persone, come sono le donne importanti che sono sempre dietro a un uomo importante. In America si dice sempre dietro un uomo importante c'è una donna molto forte. Ecco, lei è stata la segretaria personale proprio del marito, e quindi non è una scienziata, ma è una che ne capisce e soprattutto riesce a capire fondamentalmente il carattere di Heisenberg, e per cui lo spiazza. Quindi è lei che impedisce che la bomba atomica poi alla fine, con la sua psicologia femminile, vada in mano ai tedeschi? No, non è esattamente questo, perché il problema della bomba atomica non si è mai capito se Heisenberg abbia saputo fare veramente l'equazione e non l'abbia voluta dare a Hitler, oppure non abbia saputo fare l'equazione, e non si è mai saputo. Mai, lui non l'ha mai confessato realmente, nemmeno negli anni dopo a venire, ed è stato, bisogna pensare che Heisenberg nel 40 era già un premio Nobel, non poteva sconfessare la nobiltà di un premio Nobel confessando che non aveva saputo fare, ma lei è l'unica che gli dice: tu non hai capito la fisica, tu non hai capito la differenza fondamentale tra un reattore e una bomba. Me lo disse Goudsmit, che era un altro grande scienziato, e lui lì ha una revanche spaventosa, ma lei lo mette di fronte continuamente alle sue responsabilità, ed è l'unica nella commedia che lo fa. Ricordiamo quindi Copenaghen con Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lo Iodice, in scena al Teatro Eliseo di Roma fino al 23 maggio. Cartellone. Ora partiamo, frate Francesco, il re è impaziente. E la sua impazienza ha fatto il miracolo? Il re mi ha dato un saggio della sua onnipotenza? E così, De Bussier, quali altri miracoli mi aspettano? Farà sprofondare l'inferno perché egli non lo trovi! Il miracolo, il re, lo aspetta da voi! Siamo dietro le quinte del Teatro Quirino di Roma, dove fino al 23 maggio è in scena Francesco e il re, la storia di San Francesco di Paola, con Ugo Pagliai che interpreta appunto San Francesco, mentre Philippe Leroy interpreta il re di Francia. Ugo Pagliai, chi era San Francesco di Paola e che cosa ha fatto nella sua vita? A un certo punto viene chiamato dal Papa per andare dal re di Francia. La sua scelta era quella di aiutare il prossimo, di aiutare chi aveva bisogno di lui. Ecco, quindi il fatto che questo re lo manda a chiamare perché sapeva di queste sue virtù e anche aveva la fama, il Francesco, di essere quasi un taumaturgo, quindi lo manda a chiamare perché lui si sente di aver bisogno di continuare una vita che gli sta magari scappando per le mani, ma poi Filippo stesso lo dirà. E quindi lui intraprende questo viaggio dove incontra naturalmente anche, diciamo, la tentatrice, quella di cui si era innamorata quando lui era giovane. Ne sentiva veramente la necessità di averla, come no. Quando c'è stato un momento in cui si sono trovati vicini, lui, per reagire a questo desiderio fortissimo che aveva da uomo si butta nelle acque gelate di un torrente per smaltire i bollori. Come ha fatto un po' San Francesco, che era poi il suo idolo, diciamo, il suo esempio. Allora, Philippe Leroy interpreta invece il re di Francia, un po' il cattivo di questa pièce teatrale. Prima di tutto sono molto onorato di poter recitare con un grande attore che è Ugo Pagliai. Poi non è cattivo, ha un'ironia feroce, e di più credo che questo confronto del potere, o piuttosto questa pittura del potere, è molto attuale, nel senso che effettivamente il potere oggi non ha più la stessa missione che aveva prima. Diventa una funzione, diventa la tirannia, diventa... Dunque, io devo dire modestamente che il testo mi è piaciuto moltissimo, e poi di avere le repliche da Ugo è anche un grande piacere. Ma questo si riferisce, questa critica al potere, un pochino a quello che avviene in Italia e in Francia con al potere Berlusconi, Sarkozy, che sembrano quasi dei monarchi? Non faccio politica, perché il potere oggi è dappertutto, dunque non è. E il potere pensa solo a lui, non pensa ai deboli, ai poveri, a cose. Non pensa. Pensa soltanto alla poltrona, alle cose qui. Ma non è l'Italia, è la Francia, è tutti i paesi, la Cina pure, cioè, voglio dire. Io credo che deve far riflettere molto, e credo che effettivamente la religione, la fede, aiuta molto quelli che hanno poco. Quelli che hanno poco, perché San Francesco di Paola era, come prima il suo predecessore San Francesco d'Assisi, l'uomo che aiutava i poveri. Lo fa in Calabria, poi intraprende questo viaggio e muore poi in Francia dopo 25 anni dal suo arrivo, e lo fa anche in Francia. Per un attore come lei, qual è il messaggio? Come si sente un attore a recitare un santo? Non deve essere facile. No, non è assolutamente facile, anche perché, anche se io ho affrontato dei testi religiosi, fra i quali il Giobbe di Karol Wojtyła, che con Zanussi facemmo a San Miniato, e quindi quello era un altro tema. Quindi mi piace dire certe parole, come mi piace dire queste parole. E indubbiamente io credo che un grande peccatore, quale sono io, mi ritengo, possa essere forse più giusto nello scoprire le parti, diciamo, umane, le parti profonde, le parti del confronto, diciamo, con le persone più povere, più deboli, bisognose. A un certo punto lui addirittura aiuta la gente che è appestata perché scoppia l'epidemia di peste e il re sgombra tutto il campo. Però lui è così intelligente da capire che c'è stato un Deus ex machina, che non è però Dio, ma bensì il re di Francia. Il re non vuole che perda tempo e lui invece, già all'inizio lo dice, io vado per i perseguitati. Quindi i perseguitati sono quelli che lui incontra e sono anche quelli che sono appestati. E quindi si sofferma per porgere aiuto, per dare la parola di conforto, ma il re non vuole che lui perda tempo e quindi fa un atto terribile, che è quello di portar via gli appestati, farli morire da altre parti, e quindi per pulire la strada a Francesco, che deve assolutamente arrivare a lui. È una cosa veramente che solamente un tiranno, un potere estremo può fare una cosa del genere. E a un certo punto il re, il suo personaggio, ha la possibilità di redimersi, perché potrebbe concedere una grazia, e invece non la concede, una grazia a un giovane disertore. Ma questo, tutti i poteri fanno così, non è che è soltanto un caso unico. La grazia chi la dà oggi? A nessuno. Come? Che sia in Iran impiccando la gente, in Cina dove li ammazzano, ancora negli Stati Uniti c'è la pena di morte. Cioè, voglio dire, no, anche se ci sono dei delitti, certo, no, non è che bisogna. Però tanti innocenti muoiono anche in Africa, anche di fame, di malaria, di cose, qui credo che. E il potere, guardiamo un po' quello che è successo nel Zimbabwe, cioè voglio dire, niente, il potere è un tiranno, ecco. Allora ricordiamo, Teatro Quirino di Roma, fino al 23 maggio, Francesco e il re con Ugo Pagliai e Philippe Leroy, regia di Geppi Gleiesias. Grazie. Il cuore dei potenti è duro come la pietra. Soltanto il timore di Dio riesce qualche volta ad aprirlo. Qualche volta io penso che bisognerebbe aprirlo con altre pietre. Qualche volta lo penso anch'io, ma poi penso che chi adopera una pietra per aprire un cuore si ritrova poi quella pietra al posto del cuore. Meglio subirla. Noi siamo abituati ad andare a teatro a vedere un cartellone, poi scegliamo questo ci è piaciuto, questo non ci è piaciuto. Invece c'è il Teatro Vittoria di Roma, il teatro storico di Testaccio, un quartiere un po' particolare a Roma, dove si concentrano anche moltissimi romanisti, ma non parliamo di calcio in questo weekend, che ha deciso invece una strategia diversa, cioè sono gli stessi spettatori a votare lo spettacolo che più gli piace e magari a metterlo in cartellone. Viviana Tognolo, direttore artistico del Teatro Vittoria di Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È proprio così? Cosa succede? Che cosa avete inventato al Teatro Vittoria? Uno arriva, deve votare? Sì, allora io l'anno scorso sono andata a vedere alcuni spettacoli nei teatri cosiddetti off, teatri più piccoli, dove in genere i giovani fanno i loro spettacoli, che tra l'altro si producono da soli, eccetera. E ho visto delle cose bellissime, ho visto una grande qualità, veramente talenti, e mi è venuta in mente questa cosa. Siccome poi poveretti, perché quando negli anni 70 i teatri, le cosiddette cantine, erano frequentate dalle cantine, sono usciti Carmelo Bene, Gigi Proietti, Calenda, i Kusterman, cioè tantissimi artisti che poi oggi sono grandi e riconosciuti, ma da subito, perché venivano promossi immediatamente, non so come dire, bravi, e si meritavano di essere portati avanti. E invece oggi i giovani sono abbandonati a se stessi, e allora ho detto che bisogna fare qualcosa. E allora mi sono inventata questa rassegna, Salviamo i Talenti. Sono quattro spettacoli che ogni settimana ce n'è uno. E adesso a giugno praticamente? Dal 20 maggio al 12 giugno. Quindi chi è a Roma dal 20 maggio al 12 giugno? Deve venire al Teatro Vittoria. Al Teatro Vittoria, perché poi il pubblico sceglierà lo spettacolo che deve essere messo in cartellone al Teatro Vittoria. E poi c'è anche una giuria di esperti però che potranno dare lavoro ai ragazzi, registi, produttori, direttori di teatro, autori, direttori di doppiaggio, eccetera. Quindi si viene e si vota? Si viene e si vota, però si vota dopo il quarto. Spettacolo. Quindi si deve fare un pacchetto. Ecco, un pacchetto che tra l'altro, se lo devo dire, lo dico. Lo dica, lo dica. È un piccolo abbonamento che costa 28 euro, cioè 7 euro a spettacolo. Per i giovani sotto i 25, fino ai 25 anni, 5 euro a spettacolo, 20 euro quindi. Viviana, allora aiutiamo questi giovani. Intanto dobbiamo assolutamente andare al Teatro Vittoria e fare questo abbonamento, perché questi 7 euro poi aiuteranno la nuova drammaturgia, visto che siamo infatti, in un periodo un po' di tagli, infatti, di fondi. Infatti, per i giovani, tutti i giovani ci sono problemi di lavoro, ma per noi che facciamo questo mestiere siamo ancora più penalizzati degli altri, perché proprio non ci considera nessuno, come se fosse un gioco, non una professione, insomma, no, la nostra. E il teatro deve vivere, perché il teatro è cultura, il teatro fa sognare, il teatro è una magia che la gente non deve abbandonare, ecco. Soprattutto, Viviana, il teatro deve vivere perché è la coscienza di un popolo. Allora, e noi ne abbiamo bisogno di questa coscienza. Allora, ringraziamo Viviana Tognolo, storica, possiamo dire fondatrice della compagnia Attori e Tecnici del Teatro Vittoria di Roma. Ricordiamo che c'è questa possibilità dal 20 maggio fino al 12 giugno di fare questo pacchetto per vedere 4 spettacoli e votare lo spettacolo che vi è piaciuto di più. Spettacoli, come abbiamo sentito, off, insomma, di teatro alternativo, di teatro emergente. E ringraziamo il Teatro Vittoria per questa grande opportunità che dà ai giovani. Grazie Viviana. Grazie a voi. Cartellone. Alla fine Puccini ci riesce sempre un po' a convertire alla sua musica, è talmente tanto bella, ci fa talmente tanto sognare, che come rifiutare questo grandissimo compositore e questo grandissimo compositore di Torre del Lago? Perché? Perché questo sabato e questa domenica c'è un evento un po' particolare. Sì, c'è un nuovo allestimento del dittico pucciniano Gianni Schicchi e Suor Angeli, che abbiamo sentito Montserrat Caballé che cantava appunto Gianni Schicchi, e noi abbiamo qui a cartellone Lucetta Bizzi, soprano ma anche un po' organizzatrice dell'evento. Buongiorno. Buongiorno a voi. Cosa accade alla Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago questo weekend? Ci saranno i ragazzi, canteranno i ragazzi che hanno frequentato l'Accademia di Alto Perfezionamento, voluta appunto dal Festival, e quindi grazie al direttore generale, direttore artistico, presidente, tutti coloro che hanno voluto questa scuola per cantanti, e questi ragazzi debutteranno e canteranno il dittico che manca da 36 anni appunto a Torre del Lago. Infatti quindi vedo che Gianni Schicchi mancava dal 1998 1848, sì, quando fu messo in scena insieme alla Cavalleria Rusticana, mentre Suor Angelica, nella nota che mi avete mandato, è assente dal 1995. Esatto. Per quale motivo? Perché essendo due opere brevi è molto difficile metterle in scena? Metterle insieme, poi a volte si mette insieme Gianni Schicchi, Suor Angelica, Tabarro, insomma è difficile la realizzazione di queste due opere insieme. E qui adesso abbiamo avuto questa occasione, ecco, questa occasione molto importante per questi ragazzi. Io sono molto molto felice. Lei ha seguito questi ragazzi anche nel loro percorso di apprendimento canoro? Sì. Ho seguito questi ragazzi dalla fine di gennaio, quindi sul piano tecnico io, il maestro Roni, e per la regia la signora Hewitt, bravissima, e quindi ci siamo occupati della preparazione di questi ragazzi e siamo in gran fermento, ecco, perché adesso siamo alla resa dei conti. Alla resa dei conti nel nuovo auditorium. È questo. Tutto questo è un assaggio del festival che verrà fatto quest'estate? Non so se si possa dire assaggio, ecco, sicuramente. Cioè un grande assaggio, un grande antipasto, diciamo. Sì, perché, ripeto, coinvolge i giovani e noi abbiamo bisogno di nuovi talenti e questa Accademia dà la possibilità a questi ragazzi di poter cantare finalmente, di poter debuttare, e non è facile per i giovani al giorno d'oggi, in una realtà così prestigiosa come quella di un festival pucciniano così importante. Quindi nel loro curricula avranno sempre questa nota, ecco, così prestigiosa. Ringraziamo allora Lucetta Bizzi, soprano e speciale insegnante di questi ragazzi al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago questo weekend, il dittico pucciniano Gianni Schicchi e Suor Angelica. Grazie. Grazie a voi. Vi ricordate quando andavamo a scuola? Sì, quando a un certo punto il professore ci diceva: va bene, ma facciamo una recita scolastica, anche perché, insomma, imparare le lezioni alle volte era veramente, veramente dura. Allora forse, magari, facendo una recita scolastica sviluppavamo anche un pochino la memoria. Beh, il teatro delle scuole diventa veramente un'iniziativa invece importante a Bologna, perché l'Arena del Sole del Teatro Stabile di Bologna organizza da questo weekend fino al 12 giugno una rassegna a dir poco, insomma, in grande stile, perché è stata inaugurata nel 1986 e prosegue da fino ad oggi con tantissimi studenti, 700 studenti, 19 istituti e 17 rappresentazioni. Insomma, una faticaccia, come si suol dire, far recitare tutti questi giovani. Ma allora noi siamo andati a cercare Paolo Cacchioli, che è uno degli organizzatori. Buongiorno. Buongiorno. Allora, quanti sono questi studenti? E poi alla fine se le ricordano queste battute, studiano un po'. Ma guardi, studiano e se le ricordano e partecipano con molta passione. Quali sono gli allestimenti maggiori che avete fatto? Quali opere mettete in scena in questa rassegna? I titoli sono tanti, però la cosa principale da dire è che qui viene fatto un lavoro che inizia ogni anno a ottobre, quindi praticamente all'inizio dell'anno, Cioè il Teatro Stabile di Bologna, di cui io mi onoro di essere il direttore artistico, sviluppa tutta una grande attività ovviamente di produzione, teatro di prosa, musica, danza, eccetera, e l'attività del teatro verso le scuole diciamo, fa parte proprio della struttura della filosofia del nostro teatro, perché il tema è costruire comunque anche il pubblico del domani. Qui li rendiamo protagonisti, i nostri artisti vanno lì a insegnare a loro come si scrive un testo, come si mette in scena, come si fa la regia, come si fanno i costumi, le luci, eccetera, eccetera. Teatro delle Scuole 2010, rassegna di spettacoli allestite dalle scuole di Bologna e provincia. Siamo alla 24esima edizione. Fino al 12 giugno, a partire da questo weekend. Ricordiamo e ringraziamo Paolo Cacchioli, che dirige questa iniziativa, nonché il Teatro Stabile di Bologna, l'Arena del Sole, Nuova Scena, tutti quanti nel Teatro delle Scuole di Bologna. Grazie. Grazie a voi. Sarà perché la primavera tarda ad arrivare quest'anno, sarà perché c'è stata l'eruzione del vulcano islandese di cui nessuno si ricorda il nome, sarà perché il Vesuvio ancora dorme ma ci preoccupa sempre, anzi addirittura è stato lanciato l'allarme sul vulcano di Ischia. Insomma, questi vulcani fanno arrivare questa primavera. Sarà tutto ciò, ma insomma un pochino io mi sento inquieta, e allora per calmare la mia inquietudine, ma anche la nostra inquietudine di questa primavera che non arriva, abbiamo la soluzione. Proprio la festa dell'inquietudine, che si svolge quest'anno a Finale Ligure e analizza questo aspetto dell'animo umano. Buongiorno Elio Ferraris. Buongiorno. Allora, che cosa avete in mente quest'anno sull'inquietudine? Quest'anno stiamo conducendo un percorso che ci permette di coniugare l'inquietudine con il limite. È la terza edizione della festa. Nel primo anno, nel 2008, abbiamo scavato nelle radici dell'inquietudine. L'anno passato abbiamo visto il rapporto tra inquietudine ed eros. Quest'anno invece vogliamo, attraverso una serie di discipline, la matematica, la psicologia, la tecnologia, la scienza, l'economia, coniugare l'inquietudine umana con questo concetto di limite. E cercheremo di fare il punto sui limiti conoscitivi, sui limiti morali ed estetici che si pongono di fronte all'uomo contemporaneo. Ecco, voi cercate il contrasto, il contraddittorio dentro di noi, che stuzzica poi questo desiderio di trasgressione, di passare oltre. È questo un po' che genera l'inquietudine? Esattamente, proprio questo. Sia nel senso positivo che nel senso negativo, nel senso che la nostra inquietudine è quella che spinge Ulisse a seguire virtù e conoscenza, ecco, è Ulisse dantesco, questa è l'accezione dell'inquietudine che prediligiamo, e ovviamente ci piace molto nella storia le vicende di coloro che sono andati oltre le colonne d'Ercole, quel plus ultra che è stato scritto poi da Carlo V, che dice dopo Eracle andiamo oltre. Oggi ci sono una serie di argomenti, basti pensare all'astronomia, ecco, infatti mi stava venendo in mente proprio l'astronomia, la fisica quantistica. Esattamente, no? E poi c'è la biomedica, c'è la biogenetica, c'è la genomica, nella quale i confini si stanno superando e la conoscenza umana mette dei paletti sempre più avanti. Questa cosa naturalmente è frutto di quell'inquietudine, di quel desiderio di conoscenza che spinge l'uomo all'infinito, ma nello stesso tempo è generatore di inquietudine se un limite non viene posto, se qualche vincolo, ecco, non viene posto, e che può in qualche modo ledere la dignità umana. Ecco, noi cerchiamo appunto di lavorare attraverso esperti di vari campi proprio su questo rapporto, e cioè cercare di andare oltre nelle conoscenze, capire quali sono i livelli a cui sono arrivate le diverse discipline e nello stesso tempo appunto cercare di capire dove, almeno nella fase attuale, è giusto mettere quello che Eracle disse non plus ultra, ma che poi sapendo che fra un po' di tempo sarà superato. Senta Ferraris, dove si svolgono gli incontri e a che ora? Oggi faremo un percorso che ci porterà dagli UFO ad affrontare il tema degli UFO e degli extraterrestri fino a parlare con un massone, con un teologo sul tema dell'aldilà. Poi avremo Andrea Pezzi, che è stato il grande DJ di MTV, parlerà di questa sua vita con cambiamenti senza limiti. Parleremo di chirurgia estetica tra i giovani attraverso uno spettacolo teatrale. In serata avremo due nostre premiazioni che vengono chiamate Inquietus Celebration, che vedranno come protagonisti Mario Riccio, il medico che ha assistito Welby nel suo trapasso, e Chiara Cecchi, che è la responsabile della brevettabilità della vita di Teleton, che parlerà di genomica. Insomma, tantissimi gli appuntamenti. Dov'è l'incontro? Dove si svolgono, per tutto quanto finale Ligure, oppure c'è a un luogo? Tutto quanto a finale Ligure, in due sedi, una è il magnifico complesso di della fortezza di Castelfranco e l'altro il complesso monumentale di Santa Caterina. Ricordo soltanto una cosa, che il nostro evento clou, che domenica pomeriggio il premio Inquieto dell'anno andrà a Elio, cioè a Elio delle Storie Tese. Più inquieto di lui non c'è nessuno. Allora, festa dell'inquietudine, abbiamo sentito finale Ligure, tantissimi gli appuntamenti, grazie a Elio Ferraris. Grazie a tutti voi, buon lavoro. Cartellone. Questo sabato ci prepariamo a una notte un po' speciale, sì, perché proprio questa sera in tutta Italia e in tutta Europa sono aperti i musei, cioè si possono visitare tutti i musei di tutta Europa, e anche Roma aderisce ovviamente alla Notte dei Musei, che viene fatta, pensate, in oltre 40 paesi e che si svolge dal 2005 con successo in tutta Europa. Noi abbiamo scelto la capitale un po' come esempio, seguiremo poi proprio la Notte dei Musei a bordo del bus che ci porterà in tutti i musei della capitale per un totale di 80 spazi culturali e anche che saranno aperti gratuitamente dalle 20 fino alle 2 di notte. Buongiorno a Francesco Marcolini, presidente di Zetema Progetto Cultura. Insomma, buongiorno. È un boom stanotte. Noi aderiamo come amministrazione comunale di Roma per il secondo anno alla Notte dei Musei. E quello che facciamo non è solo aprire tutti gli spazi culturali della città, ma anche animare questi spazi con mostre, concerti, rassegne di danza, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti per questa notte. Si parte alle 20, si finisce alle 2, si spera che il tempo regga. E quali sono gli eventi più importanti da seguire per i radioascoltatori che si trovano a Roma in questo weekend? Cioè, li vuole segnalare? Ma sono tantissimi, io ne dico proprio alcuni così in velocità. Intanto, apertura straordinaria di Camera e Senato, direi, tanto cominciamo bene. E quindi anche da tutta Italia, se dovessero arrivare, venissero a vedere i lavori parlamentari o come si svolgono, almeno a immaginarli. Esatto, poi apertura del cosiddetto palazzaccio, ora ribattezzato Corte di Cassazione, si sono raccomandati. Per cui anche quello è un luogo storico, eccezionale, molto bello, sconosciuto a tutti, devo dire anche ai romani. Anche perché appunto la nomina, no, il palazzaccio, viene visto, mette quasi paura lì stagliato davanti a Castel Sant'Angelo. Esatto. Poi noi abbiamo tantissimi eventi in tutta la città, ne dico qualcuno ma non vorrei far torto agli altri. Intanto le grandi mostre, Caravaggio, Hopper, De André, sono mostre che stanno andando fortissimo e che per questa notte sono aperte a tutti, per cui intanto abbiamo le grandi mostre. Poi abbiamo, che so, ai Musei Capitolini, quest'altra grande mostra che sta andando molto bene sull'età della conquista di Roma. Nelle sedra del Marco Aurelio abbiamo invece musica argentina fino a tardi, offerta dall'ambasciata in occasione dei 200 anni dello Stato argentino. E poi, che so, tanto per dire, Gegé Telesforo alla Centrale Montemartini, Sabba Anglana a Villa Borghese, abbiamo Disco Funken al Mattatoio alla Pelanda, abbiamo le degustazioni dell'Enoteca regionale del Lazio all'Opificio Telecom ai Mercati Generali. Direi, quello che consiglio ai radioascoltatori è di andare sul nostro sito zetema.it e vedere tutto il programma. E ricordiamo che la Notte dei Musei ovviamente è in tutta Europa e quindi anche in tutta Italia, non solo a Roma. A Milano si prepara l'apertura del Museo del Castello Sforzesco e poi anche qui i musei rimarranno aperti. C'è Palazzo Morando, Costume, Moda e Immagine, il Museo del Risorgimento di Milano aperto, il Museo di Storia Naturale, lo Spazio Oberdan. Insomma, tantissime iniziative anche nel Milano di Radio 24. Anche a Napoli c'è la stessa possibilità. Ricordiamo, l'orario è sempre dalle 20 alle 2, tutti i musei sono aperti, e anche a Venezia, ma in tutte le città d'Italia. Allora, buona notte dei musei a tutti. Schiamo nella fantasia, pietre verdi di Bahia, al timone la follia, e ci ritroviamo in alto mare, in alto mare, per poi lasciarsi andare, sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso giù. E adesso andiamo a Cervia, sì, perché addirittura è la 566esima edizione dello Sposalizio del Mare, un patto con il mare, un ponte con l'Europa. Insomma, si rinnova una tradizione antichissima, una cerimonia sentitissima in questa località in provincia di Ravenna. Noi abbiamo qui a cartellone Nevio Sanimbeni, assessore al turismo del comune di Cervia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, cosa succede in mare? Ma succede una cosa bellissima: dal 1445, quando ci fu il numero zero, il numero uno, e il vescovo, venendo da Venezia, lanciò l'anello per calmare il mare si calmò, e da quell'anno in poi tutti gli anni, senza oramai averne perso uno, si ripete questa cerimonia. E questa è un po' la storia tradizionale, quella che è diventata storia di festa per tutti i pescatori, per i salinari, per la città. Poi ovviamente intorno a questa bellissima tradizione sono costruite tante altre iniziative, in particolare quelle collegate all'Europa, perché è giusto parlare di ponte per l'Europa, e quest'anno ospite della nostra città sarà la città belga fiamminga, in particolare di Hasselt, che ci porterà un po' tutta se stessa, insomma, la sua qualità. Hasselt viene chiamata la città del gusto in Belgio, e quindi la moda, i sapori, tutto qua a Cervia, Milano Marittima, per questa occasione. Poi vedo che stasera c'è lo spettacolo con i fuochi d'artificio, ovviamente non possono mancare, no? Poi c'è la mostra fotografica, ma quello che mi piace di questa tradizione è il dolce delle zitelle. Beh, è una vecchia, anche questa è una tradizione che abbiamo ripreso negli ultimi 3 o 4 anni, però è una tradizione reale. E durante lo sposamento del mare tutte le persone scendevano verso il mare, no? Dall'entroterra, dalla collina e così via, ed era l'occasione migliore per le ragazze, le signorine, diciamo, ancora non fornite di marito adeguato, per, come dire, accalappiare il buon marito. E per cui si preparava questo dolce, un dolce buonissimo che si fa solamente in questo periodo, si trova in tutte le pasticcerie della città, ma solo per questo periodo. E quindi queste signorine offrivano questo dolce, che poi è diventato il dolce delle zitelle. Poi c'era un grande ballo, e durante il ballo, insomma, si sa come vanno le cose, come vanno tuttora le cose, per questo è un grande luogo per incontrarsi. Oggi dovremmo chiamare il dolce delle single, ma non sarebbe la stessa cosa, non suonerebbe così piacevole come, e così divertente come l'idea del dolce delle zitelle. Quindi, per chi volesse vedere una cosa veramente storica che ci inorgoglisce come in italiani, la 566esima edizione dello Sposalizio del Mare a Cervia durante questo weekend. Grazie assessore. A presto, ci vediamo tutti qua. E adesso annunciamo una nuova iniziativa del gruppo Sole 24 Ore, perché da giovedì siamo in edicola con un catalogo speciale su Giorgio De Chirico, realizzato dal Sole 24 Ore Cultura in occasione della mostra proprio di De Chirico al Palazzo delle Esposizioni di Roma. È differente nel formato e caratteristiche tecniche, ma il catalogo ha gli stessi contenuti iconografici. Sarà in edicola per 2 mesi e si può acquistare con €19,90 in più rispetto al prezzo del nostro quotidiano Il Sole 24 Ore. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone @ radio24.it. Come ricordo che potete riascoltare questa puntata sul nostro sito www.radio24.it. Una buona giornata e un buon weekend a tutti.